il fuoco della paura, un volo tra stelle, invisibile e accecante, lontano da tutti e tutto, la la l'amor nella notte, a chi ci crede? Sono scelte, il dolore e il viaggio, gli occhi dimenticano per tutti i minuti troppo forti, dittatore. Love!